Sì, La conquista della felicità è una rassegna all'interno di Bologna Estate, del Comune di Bologna, che abbiamo presentato in comune con l'assessore Matteo Lepore, che ha tante iniziative e tanti appuntamenti. Ne abbiamo già fatti due, uno sul blues e un altro sul dialetto con la compagnia Enrico Lucchini, ma gli altri due interventi sono abbastanza interessanti, perché il 15 giugno avremo il gruppo teatrale Gli Amici di Luca, che è un gruppo che fa laboratorio con il Teatro dell'Argine della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, che presenta questo nuovo progetto di spettacolo, Vero Io, che sarà il debutto per la giornata dei risvegli di ottobre al Teatro Lab del Teatro dell'Argine. Poi abbiamo il 22 di giugno, l'altro appuntamento assai importante e curioso, che è un meeting delle scuole di yoga, Essere Yoga Bologna Meeting, fatto dal gruppo Essere Pace, che è un incontro tra le scuole di yoga di Bologna e Imola. Sono 8 scuole di yoga che dalle 8.30 fino alle 21.15 faranno attività di yoga in tutta la casa dei risvegli Luca De Nigris. Questo è un momento di unione tra il percorso di cura e benessere e anche un rilassamento e meditazione per le persone che vorranno venire. Per quanti fossero interessati, info@amicidiluca.it oppure 051 6494 570.